Europa 24. L'avete sentito anche poco fa in effetto giorno, Eurogruppo oggi sulla Grecia alle prese con nuove misure di austerity. La nuova austerità che si riverserà sui greci è stata approvata nella notte. Governo e opposizioni hanno atteso che Piazza Sindagma si svuotasse, che gli scontri comunque contenuti si placassero. È passato l'ennesimo taglio sulle pensioni e la riforma fiscale, in pratica nuove tasse. Misure per 5,4 miliardi da offrire sul tavolo dell'Eurogruppo. La Grecia si reggerà in piedi da sola ad ogni costo, ha dichiarato Tsipras nell'estremo tentativo di ottenere soldi per allontanare lo spettro del fallimento. Il ministro delle finanze Tsakalotos si presenterà a Bruxelles portando anche un accordo preliminare sul fondo per le privatizzazioni e sui crediti deteriorati. A dire il vero, su quest'ultima voce l'accordo con i creditori era già stato raggiunto. La maggior parte dei crediti in sofferenza in Grecia riguarda i mutui sulla prima casa, una voce più che sensibile. Ci sarebbe anche un accordo di massima sui meccanismi automatici da far scattare nel caso in cui Atene non raggiunga i target fissati, il 3,5% di avanzo primario nel 2018. Ed è qui che si gioca la vera partita. Il Fondo Monetario, che ha minacciato più volte di abbandonare i negoziati, non ritenendo credibile l'obiettivo, vuole da Atene tagli preventivi o la ristrutturazione del debito. Dall'altro capo del tavolo c'è l'Europa e in prima fila la Germania, che di taglio del debito non vorrebbe proprio sentire parlare. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. David Cameron alza i toni del confronto sulla Brexit. Il premier britannico arriva a dire che l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea metterebbe a rischio la pace in Europa con la possibilità di nuovi conflitti. Il primo ministro, impegnato nella campagna per tenere il paese nell'Unione in vista del referendum di giugno, ha sottolineato come il Regno Unito abbia rimpianto quelle volte in cui in passato ha voltato le spalle all'Europa e ricordato che l'Unione Europea ha aiutato i paesi a riconciliarsi e a mantenere la pace. E da Berlino il commento al discorso di Cameron del portavoce della cancelliera Angela Merkel, Stefan Seibert. L'Unione Europea, come accordo comunitario fra 28 Stati membri, ha comportato non solo effetti positivi relativi al benessere e allo Stato di diritto, ma ha anche tutelato quegli Stati dalla guerra. Oggi festa dell'Europa. Il 9 maggio ricorda la giornata del 1950 in cui il ministro degli esteri francese Robert Schuman lanciò la proposta di una comunità europea del carbone e dell'acciaio, embrione dell'attuale Unione Europea. L'Europa è ognuno di noi, dice Federica Mogherini, responsabile della politica estera dell'Unione Europea. Credo che oggi, giorno della festa dell'Europa, questo sia il grande messaggio, che l'Europa siamo noi, ognuno di noi, e quello che riusciamo a farne è quello anche che ci torna poi come strumenti che ci aiutano a risolvere i problemi di oggi. Come se, vista dal di fuori, l'Europa avesse tutta la sua forza, tutta la sua importanza, tutta la sua energia, e poi invece dentro i nostri confini noi ci chiudiamo un po' in un'autoreferenzialità che non aiuta i nostri cittadini. Abbiamo una grandissima responsabilità, perché oggi come non mai ai cittadini europei serve l'Europa. Sulle migrazioni, sul terrorismo, sull'economia, sui grandi rapporti che abbiamo con il resto del mondo, o siamo in grado di agire da europei o non siamo in grado di offrire risposte ai cittadini. Quindi c'è bisogno di uno scatto di responsabilità. È tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.